America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Siamo arrivati al Super Tuesday, appuntamento cruciale per queste elezioni americane che vede 11 stati nelle primarie e caucus repubblicani e 12 stati coinvolti invece in quelle democratiche. Si vota per i repubblicani in Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia. Ci sono 595 delegati in palio che sono assegnati in modo proporzionale per procedere verso la conquista della nomination. Vi ricordo che servono 1237 delegati per poter vincere la nomination. Fra i democratici, vi dicevo, voti in 12 stati, Texas incluso, più o meno sono gli stessi della gara repubblicana. Ci sono però 894 delegati in palio e devo dire qui Hillary dovrebbe vincere con ampio margine di vantaggio contro Bernie Sanders e di fatto chiudere la partita. Poi Sanders andrà avanti, potrebbe anche andare avanti fino alla fine, ma non ci saranno dubbi poi su chi vincerà la corsa per la nomination. Per Trump invece, qualche probabilità di fermarlo c'è ancora e dunque dobbiamo chiederci se siamo davvero alla svolta, all'inevitabile conferma che questo bulletto sarà poi la scelta repubblicana per la Casa Bianca del 2016 e con il Super Tuesday, vi dicevo, è in vantaggio dappertutto. Però oggi, prima del voto, le probabilità ci sono e ci sono molti nell'establishment repubblicano che stanno dando un grande affare per cercare di fermarlo. Dopo, soprattutto se andrà come ci dicono i sondaggi, che sono tutti a suo vantaggio generalmente, le probabilità di fatto crollano e la risposta all'interrogativo di fondo, appunto, ce la farà Trump? Contrariamente a qualunque previsione, potrebbe essere affermativa. Sentiamo Trump. I'm extremely angry and upset about it. I think it's ridiculous. Avete sentito il tono, ormai lo conoscete, il tono aggressivo di Trump. È un tono che non appartiene al vecchio modo di fare politica, al vecchio modo di comportarsi nell'establishment. Per questo devo dire che il Partito Repubblicano, più ancora di quello democratico, è trafitto da un senso di orrore nel vedere questo candidato, questo bulletto procedere. Per cui vecchi senatori, presidenti di commissioni, governatori, sono tutti contro questo candidato aggressivo, maleducato, narcisista, isolazionista, questo a seconda delle definizioni che leggiamo sui giornali e che gli attribuiscono i suoi concorrenti durante il dibattito. Candidato, dicevo, che tutto rappresenta tranne che lo spirito tradizionale del Grand Old Party. I want to talk about oversight. Good oversight is essential to protecting taxpayers and preventing executive overreach. Ecco, questo è Paul Ryan, il presidente della Camera, che è, mi dicono, dicono molte analisi, il più irritato di tutti, irritato al di là dell'immaginabile, un po' forse perché si morde le mani per non essere entrato in questa corsa elettorale, lo ricorderete, fu la scelta per la vicepresidenza da parte di Mitt Romney nelle elezioni del 2012. Ryan nel frattempo è diventato presidente della Camera, dunque ha preferito continuare, Ryan che tra l'altro è giovane rispetto alla media dei candidati di oggi, anche rispetto a Donald Trump, ha preferito continuare nella sua esperienza in Congresso. E dunque in Congresso Ryan aveva già messo a punto una piattaforma da condividere con il candidato designato del partito. Però oggi sa già che se vincerà Trump, non ci sarà piattaforma, perché Trump si muove per conto suo. Quindi ci sarà il rischio di una possibile spaccatura fra Casa Bianca repubblicana e Congresso repubblicano. E il problema qual è? Che ogni tentativo di fermare Trump da parte dell'establishment, cioè da parte di quei repubblicani importanti, è fallito. Abbiamo saputo di riunioni segrete per mettere a punto un piano d'azione, di altri progetti per scatenare con un super PAC un'aggressiva campagna televisiva denigratoria. E direi che il materiale non manca. Sentiamo Trump quando parla di Mussolini. It's okay to know it's Mussolini. Look, Mussolini was Mussolini. It's okay to know. It's a very good quote. It's a very interesting quote. And I know it. I saw it. I saw what, and I know who said it, but what difference does it make whether it's Mussolini or somebody else? It's certainly a very interesting quote. Ecco, questo è successo appena adesso, nel weekend, quando Trump ha citato Benito Mussolini dicendo che la sua massima, meglio un giorno da leone che 100 anni da pecora, è interessante e condivisibile al di là della provenienza. Però, per Trump ci sono ben altri problemi, perché Tanto avrebbe mentito sul reale valore, sulla reale consistenza del suo patrimonio. Si trova coinvolto in una causa con decine di persone e con lo Stato di New York per aver creato di fatto un'università fasulla che prometteva ricchezza alla fine dei corsi organizzati attorno al tocco Trump. E un sacco di gente ha perso un sacco di soldi, ha pagato $35,000. Pensate, c'è la storia di una anziana signora che a un certo punto ha pagato $35,000 sperando di poter fare molti soldi e naturalmente li ha persi tutti, non solo si era indebitata per poter iscriversi a questi corsi. Trump avrebbe partecipato a discutibili festini in compagnia di Jeffrey Epstein, che è un personaggio americano condannato da un tribunale in Florida per aver fatto sesso con minorenni. E Trump ha dimostrato di non sapere nulla dal punto di vista tecnico quando si discute del suo programma politico, del suo programma, della sua piattaforma elettorale. Non so, prendiamo per esempio la piattaforma economica. Qualcuno gli chiede: ma cosa farai dal punto di vista economico per rilanciare questa economia? E Trump non dà dettagli, dice soltanto: farò l'America grande, e tutti applaudono, e dunque questi suoi punti di debolezza scivolano via. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Ecco, qui sentiamo Trump nella sua veste di intrattenitore televisivo, faceva questo reality show chiamato The Apprentice, e la verità è che questo suo status di celebrità televisiva alla fine prevale su qualunque aspetto negativo della sua personalità, del suo modo di fare affari, della sua piattaforma politica. Fatto, devo dire, questo che aggiunge confusione al nostro modello di democrazia in un contesto mediatico che attraverso internet premia inevitabilmente il populismo e la superficialità. E se Trump dovesse affermarsi, come sembra, nel Super Martedì, la corsa per gli altri candidati, Rubio, Cruz, poi anche quelli minori, candidati che tra l'altro sono divisi fra loro, beh, a quel punto si farà davvero molto più difficile. So what's so super about a Tuesday? We're breaking down the Super Tuesday primaries for you, quick and easy. Ma torniamo al Super Tuesday, perché quello di oggi è, come vi dicevo, l'evento elettorale più complesso per i candidati di ambo i partiti. È l'appuntamento in cui si collaudano la tenuta organizzativa, il respiro in termini di gradimento dei candidati rimasti dopo le prime selezioni in Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina, stati, pensateci, che rappresentano ciascuno una delle grandi aree geografiche americane, ma stati singoli. E Trump, che pure non ha molta organizzazione, non ha adesioni importanti a suo favore, beh, a parte quella di Chris Christie, il governatore del New Jersey, sembra in effetti, secondo i sondaggi, pronto a incassare la palma della vittoria. Perde soltanto in Texas, beh, è lo stato di Ted Cruz, e Ted Cruz sembra che possa farcela. Ma per il resto è lui che prevale. Nonostante tutto, Trump sembra avanti a tutti. E quindi qual è la morale? Beh, che nel 2016 essere una celebrity è quello che conta, anche in America. Grattare dietro la superficie interessa poco, come interessa in effetti molto poco anche da noi, nel caso di molti leader della nostra politica. E perché questo? Ma perché credo che nelle difficoltà del nostro tempo, alla fine, per il cittadino medio sia meglio affidarsi a un sogno di successo che a una realtà da imbonitore. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vista la follia di questo Super Tuesday, ho scelto una fantastica canzone degli Aerosmith, Crazy, dedicata appunto alla follia del Super Tuesday. Something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good. Sends a mail right to his grave. I'll go Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.